faccio io, sai. Però non è la voglia. Ma così almeno ci troviamo lì. Ia. Ma dove c'è la gente al fresco? Fatto un giretto. Già, va bene. Però più di tanto non posso stare perché sennò dovrei far male ancora di più. Era giusto per rinfrescarmi un po', ma adesso è tutto aperto, c'è una bella rietta. Si sta di lusso, di lusso, di lusso. Ma stavo dicendo, ma non ce la fai a guidare tanto? Mi fa male se faccio un po' strada, capito? Muovermi qua così, metto in automatico e già posso guidare, spostarmi, dai. Sono quelle che mi danno fastidio, invece se sto alla dritta non ho problemi. Curva e sotto, va bella. Ah, non è anche le curve, tutte le manovre e manovre, capito? Uie, uie, e cosa ci vuoi fare? Siamo, e se no è che sera se mi sparato, vediamo che... Sì, non so che scendere, c'è problema. A fare fuori lì? C'è una piazza, c'è tutto lì. Hanno fatto una chiacchierata tranquillamente. Che si può fare invece salire, non c'è problema. Si può fare sì. Si può fare tu. Non c'è problema. A me non c'è nessuno, stavo scarrellando, girato un po' da tutte le parti. Girato un po' da tutte le parti. Capo, ma stavo pensando un po' a quella situazione là. Anomala, dai. No, non posso dire particolare, sto pensando una cosa. Già mi hai capito. Lo sto pensando io fra di me, dai. Io te l'ho detto quello che penso, poi per adesso me la fottuta. Capito? Ci vuole un po' di buon senso e capire se una cosa non si può fare o non la devi fare. Tutto lì, poi. Ognuno si prenderà sulla sua responsabilità, non sta sempre. Mi sto ascoltando 10 metri, cazzo Singapore c'è. 98.497 More? Via Singapore, Singapore. Grazie. Se non lo so perché da qua non lo vedo. Sono nella mia stanza, lui è nella sua. Grazie, sarà facendo cosa. Certo. Va bene. Sì. Anche lui in questo periodo è un po' stanchino. Si tira avanti, sì. Si sta girando a destra e a sinistra. VU HF l'operazione a non finire, ma pochi italiani. È entrato Giorgio. È entrato, sì. Allora, veloce. Beh, mi sono tornato fresco quanto. Ave fresco, ave più caldo. Cazzo, non va lo so, non va lo so, ma pure ave fresco. Si sta bene, ti ho detto, c'è un sacco di gente fuori fresco. Si sta benissimo. Io mi ricordo i vecchi tempi quando si andava lì in paese, cazzo. Chi lavora le macchine, chi la gioca, che la cucuri, che ha il piatto del grosso, e via dicendo, e beh, tutta la mezza, Al paese tuo, quanto? Al paese tuo, a Ploaghe? No, un attimino, no, Ploaghe, Giuseppe, Ussi, il paese degli Ussi. Al paese tuo, a fare invece sindaco di Ploaghe. Mamma mia, non me sto. Che non mi guardi di Antonio, non puoi fare tutta la volta di niente. Già lo sai, un paese di tua suita, già lo sai. Giuseppe. E così, te ne stai negando, eh? Ah, perché prima ci ha fatto l'amore lì a Ploaghe e da poi cazzo te ne neghi, eh? Dì la verità. Certamente, ho il cavolo amico. Ma quindi praticamente Giuseppe, ciao, buonasera. Cos'è anche lui amico di Bosa, di Anibu di Rosina? Ho messo proprio. E la voi che lega, questo palchetto, cazzo. Dopo, non ti. Non sapevo che eri così a tu, Così? Yeah. Ah, veramente non siamo andati da sindaco di Ploaghe, è stato una benedizione. E la massa te ne vai a te? Ha presentato un cane all'eco però, Cado tutto, a tu. Tu sei pazzo, ma. Basta quest'ora, io dico pazzo nel senso buono. Quanto ce l'hai col microfono? Dove c'è? Sempre a 7, Che c'è quello importante che ho sentito un inizio di innesco per lo fa. Bombolito, riprendi. No, è un innesco, Oca. Non c'è niente da fare, quello è un casino togliere, ce l'ha sempre avuto come difetto. E qua non lo faceva però. In effetti c'è un microfono là di giù a casa di Giuseppe, perché mi qua c'è Franchetto, sta uscendo perfetto qua. Posso confermare Antonio, perché sta uscendo meglio del sindaco di Ploaghe, vero Giuseppe? La portata fa pare che faccia la bocca Vai Giuseppe, poi dimmi mica quello, lo lasciamo quel bip iniziale, fa mi che male cazzo, una iattina cazzo, aspetta è un male, vedi, a questo microfono. Non è il microfono, non avete ancora capito che è la radio che fa così quando apre. Cazzo, tu li metti un altro microfono, lo torna a fare, tranquilla. Cazzo, te lo sto dicendo, ce l'ha sempre avuto il disco. E perché, Anto, perché? Non so, a che fare in bocchi, Trento. C'hai i pinguini, a tu, questo baracchino, c'hai i pinguini, i pinguini di lungo. Vai, il giocatore l'ha fatto bene, vai. Ma non è il microfono è perfetto. Che ci sono i pinguini, così. Tu sai che le fate il bagulino. Ah, sì. Se tu cambi il microfono, lo fate sempre. Fate sempre, quando apre. Ma oh, io, tu, la verità, non ho mai sentito Così fa, quando schiacci il tasto. Mi faglielo sentire le luci. Me, guarda. Un pinguino mi pare una scimmia, dice, comunque. Aiuto. Sta così, onda. È sempre stata così. No, se ne puoi pure l'altro microfono, lo fate sempre. Perché, perché, Antonio? Tu dici una curiosità, perché? No, è fatta così, è fatta. Che poderoso è. Guardi, è un cino. Ti attivo per poco, così da più buona che a te già. No, a te c'ha la trapedizione e si accresce il maddo pure a te, e oggi da quelle bloaghe. Per quale video? Tu la moglie la conosci, Giuse? Da oggi da quelle bloaghe? No, meglio no, meglio niente, cla. Come ti no? Te la sei presentato io, come ti no? E chi è? Chi è a tu? E io già lo sai, dai. Lo sai che è la Cisa, lo sai? Sì. E la Cisa, lascia perdere, già te l'ho presentata io. Perdonami, Giuseppe. Come battati. Vedi, non mi credono. Ah, sto scherzando. È una bellissima donna. Ma ha un difetto, che è 2 metri e 2,50 m. Cos'è che c'ha? Cos'è che c'ha, cra? Te? Un difetto che è 2 metri per 1,50, hai un pesce. È 2 metri l'acqua, ma 1,50 l'acqua. Cazzo, io. Oh, che pare c'è, pare di Ficaliglia. Assomiglia a un taurone tagliato a Medai. Cazzo, è allucinante. Ma la faccia piatta con i baffi. E un bello la legge, cazzo, pare due migliori della giacca ai gamboni. Allora, assomiglia a Cla, assomiglia a Coso, con le orecchie, a quello che... a Nibolo. Nibolo, anche se è Nibolo. Bomboli, di qualcosa, ragazzi. Cara chissà che ha fatto il fare la solita ai gamboni. C'è la ziracca di gamboni, la ziracca, c'è la ziracca, no? Ma qui la ziracca di gamboni. E la luci, siccome non ce l'avevano sulli per farci tutte le cosettine che ci fanno le donne, eccetera, no? Che una ziracca di magno dallo zeppino, dalla puttana mi diceva i baffi. E dalla legge pare che fa via gatto un gatto un fiocco. Ma per male sto cantando. Vedo la cosa, la... come si chiama? Ma... Mi ha presentato la sorella. Cazzo, se lo fate lo c'ha pallone. Era mona, era tutta mona. È possibile. La tua sorella, io le do complimenti, non comprendiamo qua fa il culo di italiano. Non comprendiamo. Cazzo, proprio lo c'ha pallone. La figlia di chi? Figlia e figlia, la sorella. Io non capisco. Di questa che conosco io, dai. Niente, mi ha presentato la sorella, più piccola. che bella sorella, ma vieni qua. Vieni qua, vieni qua, ti faccio allacciare la bomba. Vamos. Ciucce, Giuseppe. Dimmi, cra, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, aiuto. Perché? Cazzo. Conti giù, attaccato tu, Gianni Manzano. Ah, aria di Bloaghe. Tutto bene. Ma che cazzo, come vivono questa gente? cassona di dove è nata. Ma veramente lì, quando entri dentro quella casa, cazzo, ti prende proprio la bocca, cioè se mi devi fuggire, devi dare un fianco che fai. Sicuramente tu ne vedi tutti colori, perché uno lo fa il tuo lavoro, ma ne vedi tutti colori. Per carità, che schifo. No, ti vedi no. No, ma questi sono puliti, hanno una bella villa, tutto, capito? Solo Giuseppe, dai viaggi, tambola e tambola, quattro colpi a terra, vai col pesce, va il bustino, un altro comorino. Dai cavallo! Ma non sarà che te la vedi? Allora, Aspetta, cosa hai detto, Bomboli? Te lo ricordi, Leoncicchio, un giorno stavamo parlando di una che sta già in chimica, che era fea, che sta morta, il cazzo. Manca. Me ne avevi parlato tu una volta, se già stavamo ridendo, te lo ricordi, ma non sarà chissà, no? No. Anzi, quella, confronto a quella dei Proaghe, è più sana, hai capito, molto più sana. Ma quella dei Proaghe proprio, se la vedi, cazzo, dici, la morte, ma se la vedi la morte, ci tocca il coglione, mi hai preso. Tu conosci tra Lucia dei Proaghe o Antonio Bombolo? No, la verità no. Ci va via, chiama occhi azzurri. Capito? Ma va via solo gli occhi azzurri. Non riesce, la monta nel garraggio. Grazie a Campagnolo, non ne ha tanto, già la contenta, vai. E se meglio della pecora, già è. E è morto mio marito, fa che? Di Lucia. Oh, morto è. E via. È morto qualche anno fa, mi sembra, l'hanno detto. Ma quanto è brutto lì, cazzo, Madonna santa del Campinelli. Io posso leggere. Mi dispiace, cazzo, era una buona persona lui. Giovanni era in gamba. Conosciuto tutti e due a lei, a lui. Cioè, non andate con la buona Maria Bartolomeo e Gisele a trovarlo. Una volta. Cazzo, no, Schumacher è vero. Il radio era fenomenale, questa voce bellissima. Poi tu capo voce bella, si vuole chiamare occhi azzurri, facciamo Proaghe e invece siamo usciti tutto. Ma allora pomarino portava pure un bello pazzo di corra. No, va via su luci, vedi, boh. Io detto va via, vedete, metto un gatto, ragazzi, va via, ci metto un guiglio. No, adesso il marito buttava pure un po' di corra, buttava. Infatti non riuscivo a comprendere che aveva già un barretto in capo. Buonaccio. E anche Campagnolo già l'avrà. Non lo so. Questo è il figlio del ragazzino. Però ti posso dire che, madonna, le regioni ne ho. Mi ha preso tanto la radio, soprattutto il periodo quando entravano le ragazze così, come si chiama Marina, ragazzi, di Bortodoro, non vedeva da rubare, aveva il cavolo arrappante, mamma mia, uno dei ragazzini come la sentivo, Isci Maria Gaga. Un giorno avevamo io Antonio Benelli, c'era un produttore, c'era Antonio, vabbè, Antonio portava il pesce al produttore, c'è Sassa, ci andavamo molto presto la mattina, un altro di Graziano, il compagno mio fratello, c'ero io, lui, poi c'era Gavino Carciofo, Bonana, che è morto anche lui, poi chi c'era? Torre Fulmine, il produttore, Virginia, sono una bella greppa, intendimo. Dai, venite, vi voglio conoscere, qui là, siccome eravamo tutti in zona, a Prottore, cioè, via Cavour, via Petroni, al Corso, e andare al faro lì, al campo, là, al campo sportivo di Occone, allora, non è che ci veniva così difficile, prendiamo le biciclette e andiamo, e ci nascondiamo, cazzo, ci nascondiamo tutti alla Nevara. Io avrei avuto 16 anni, Cattolica arriva più quanto il nonno, nonno aveva più di 60 anni, Cattolica arriva più quanto il nonno, e ci siamo tutti nascosti, e siamo fuggiti di Cantabria, e ci chiamava la radio, Claudio, ci sì, oh, cazzo, rispondivo io. Una brutta come, mamma mia, un demonio, un bariaga, cazzante la lea, uccide. E non vedi di queste cose che sono successe in quegli anni, negli anni 80, ti invitavano ai conoscibili, poi andavi e ti veniva la malinconia, ragazzi, bobbia. E piace anche, no, ma non è più family, no, che no, me l'ho divertito un po'. E già siamo un po' gli uomini, voi diventare family, no, non c'entra a fare, non c'è più di sistema, come si dice, quelli belli, quelle cose si facevano anni indietro. Magari qualcuna c'è all'ascolto e poi noi siamo porcaccioni, quindi cosa va? Vabbè, sono 11:30, qualche cazzata bisogna dire ogni tanto. Comunque Giuseppe, io te l'ho detto, quando vuoi, io guarda sono a tua tomba già con lui, me l'ha sempre detto, dicami anche un uomo bello, mi bravo, non interessa la mia, sei ricco, basta sia bravo, capito? Che giù che bastone mi, capito? Che ha già manico, non mia nipote. No, quello non c'è problema, claro. Non c'è problema. Lo sai, no, te l'ho già spiegato. Provare per credere, hai ragione. Però, c'è un però. Certo, se mi viene lo zio. Mi manda qualche fratello anche altro, e mi sciamo. Se non hai compreso, no. Ha detto che i trovani no, che ha già un manico di roccio, baccudillami. Ecco. Registrato il brecco. Vabbè, dai. Avanti il brecco con la buonasera, in compagnia di Antonio Bommolo, di Claudio Saviero e Antonio Falchetto. Vai per chi vuoi. Buonasera, dai, Franco da Sosso. Ciao Claudio, ciao Falchetto, ciao Antonio Bombolo, che non ascolta Antonio Bombolo. Io ho capito una cosa, oh Claudio, se lo volete sposare o lo volete rovinare? Fernando! Ciao, ora. No, non si riesce a combinare con questa ragazza, capito? C'è in gioco sempre Giuseppe, però non si vuole sbilanciare, c'è la chimica da un cane. Io ho giudizio con cane da lecca, bravo, ogni giorno deve fare il bagno, capito? È un cane maschio, come dici, con muso schiacciato, maschietto, bellino, capito? Sempre vestito a festa, c'ha il vestitino, c'ha tutto il fiocchetto. Il problema è da, bravo, il problema è da che non dorme, se tu non ricudi i voti, e Giuseppe non se la sente. Vabbè, dai, capito, non ci vuole niente, no, prende, perché un manico è piccolo, come sai, così, sale le luci, e basta, no, e poi mi taglino le pattuglie. Gianluca, No, è Franco Vassoso, tu, è Franco Vassoso, e te c'è Giuseppe a Franco, già da dito, ti conviene orientarti su questa cosa, tu chiudi gli occhi, e se non ti vedi da Fatima e si appoggio. Ciao Franco, come sentite? Mi metto d'accordo, mi metto Claudio. Da pipistrello da notte. No, ti vedi da pipistrello, non li può vedere i pipistrelli. A voi te ne brinca in nanto e te ne mangi la chiperiolas. Allora ci vestiamo da Rubio, da Batman, ma a parte che lo facciamo fare a coso, come cavolo si chiama quello là, a Superman. Lasciatemi salutare a Franco, ciao Franco, ben sentito. Capo, buonasera, comunque buonasera a tutti, dai, io ho sentito solo qua a Claudio Falchetto e a Bombo, a Bombo non c'è per niente, non lo sento, però ho sentito che c'è in frequenza, non ho capito chi è l'ultimo che ha chiamato. Falchetto sono. Tu sì, ciao Antonio Falchetto, non hai ascoltato. Via, non hai ascoltato anche a me Franco, bisogna metterlo in guardia Giuseppe. Lui deve solo chiudere gli occhi, poi il resto viene da solo. Yeah. Beh, Giuseppe. Fra, se vuoi ti faccio passa mano, ci vai tu, vai a conoscere tu me, non vi sono problemi. Io me Claudio è disposto, te la presenta e vedi un po'. No, no. Ma conosci tu Yolanda Magna Gabocci come il produttore, cioè, Bamboli. dottore, si capite? Dai militari. Quando sbarcavano i militari era sempre in Chivi. È andato a fare un travaglio, è tutto mosso, caput, condizione a terra. Ti credo, Gas. Ha mosicato la parte in faccia. Allora, ha mosicato lo stantufos, e la nebocca di Olanda, la mia Gabocci. Ma che è una cantone da cantendi, capito? Mentre stava lavorando ha cantato una canzone, ha sbagliato, ha cantato l'Ita di Anna Magnani, ha mangiato il dito. So Giulia, pensate che si è preso di Anao. Allora, io voglio che andare a scendere la pioggia, e ci ha cantato la canzone Anna Magnani, e ne ha mangiato un cornicione. Ma per credi, brami, dimmi tu, che sei in mezzo a Porto Torrese? Porto Torrese, per carità. No, non niente studio di Porto Torrese, però sono più di un'altra parte che di Porto Torrese di Sorso, eh? Io lo so, ma oramai, dopo 30 anni di grande lavoro, via. Quando ci arrivi tu mi hai giocato a due a Porto Torrese, figurati. Non ho iniziato a lavorare tu. Io sono una vita per Sassari. E vabbè, comunque non sto scherzando, a parte gli scherzi, c'è questa che la chiamano così a Porto Torrese, e mi hanno raccontato così, non è una balla. Era una che faceva questi lavorettini, infine, invece l'ha fatto in grosso. Giuse, non le dica, non le dica. Ma che? Guarda, sogno. E io derivavano di attuale. Sì, non lo so, no, appunto faccio, li diamo a quello, a Tullio, la facciamo accoppiare con quello là, almeno si può fare la corio, come si dice, i due cani, cos'è, il maschio premia la tua, o a tu? Giuseppe, cazzo, non è il maschio, cazzo, ma via domani il mondo. Ti si chiama Tullio? Lo stesso è maschio, no? Ma tu io se lo voglio usare. Ma tu io non ha problema, non è ma tu io si fa di mascia femmina. E vabbè, faccio un'impresa dentro e da voi è arrivato il gioco. Guarda, ti racconto una cosa, l'ho visto un giorno fare l'insalata del riso, Giuseppe. Cos'è qua? Con i natichi. No, con i natichi. Ha fatto tutta l'insalata del riso, li chiuse, invece di munirli di sale e riso, c'era tutti succiati. Ah, Giuseppe, non musicati, succiati, in goditura patria, ma Giuseppe già dici, ragazzi, a te cosa ti fai? Oh, come sto? Vabbè, è per quello che io ci vado, cazzo, io ci mando a Antonio, cazzo, che a me non è due e tu. Ma state in pari. Sì, ma che ci deve succedere di nuovo? Oh, ma che? Non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, non mi fermo, Jack White. guarda, ho la cazzo somiglia a questo cane. Somiglia a qualcosa. Mi sono una volta. Ma non è che tocca a lui a fare che cosa è un cane? Gente, hai capito? Ma a noi che desiderano un gabolo, No, io non sto tirando nulla, è bloccato qua nel coso, nel comodino il microfono. Via, nel comodino, però ma non te lo tirano, diavolo. No, ma non sto tirando, è che magari non lo schiaccia bene, perché quel microfono c'ha le PDT molto sensibile, se non schiacci bene le lamelle, se non toccano bene, fanno tipo una vibrazione, no? La senti nella radio, tanto ho capito. Oggi sta uscendo bene. No, prima era proprio un fischio, un innesco allucinante. Era un innesco allucinante. Però Giuseppe, lì quando c'è quel ricatto bisogna facciamo un microfono a 5 punte, e se no con calma lo facciamo a 4, tutte e due, e mettiamo un microfono normale, capito? Un microfono normale per quando c'è quel ricatto col cavo lungo, così non hai problemi. Vabbè, non c'è problema. Tipo quello ti ho detto che ho procurato da Nico, che mi ha dato, e dice ma non vuoi questo qua? Ah, te lo dai, questo si usava per il coso che usavano delle marche, capito, della capitale di porto, del telefono, hai capito, non tu schiacciavo il pulsante e potevi parlare, hai capito? Ah, col pedale, quindi anche quello possiamo fare, non ti preoccupare, non è così difficile a farlo. Io, beh, mezzanotte a me, vedo la cosa, io ci andiamo a nanna, se no ormai è un casino, qua sono già tutti a riposo. Comunque, Giuse, ci organizziamo, vai, per fare queste cosette, niente, adesso vediamo un po', se si libero qualche domenica, tanto mi devo vedere con Giuseppe Tornaro, con Giuseppe Leoncino, con Gigi, con Massimiliano, al limite se non mi cadere da nessuna parte. Quello dici, e posso prenderti, capito? Dove? Dove? Come dove? A qua che dobbiamo andare. Ma che? Ehi, e allora, più vita? Ah, ma è da qua che vado andare. Allora Giuseppe può portare, io devo sistemare Giuseppe, dove fuori energy? Una villa, una piscina, un campo da tennis, di tutto, beh, crapi, begoli, vacche, cavalli. No, veramente, ho detto domenica. Trovate là da cosa, no? da Matita o dove andate? Io San Giovanni scendo dove, no? Che mi hai fatto? Qua c'è Massimiliano, prendiamo un caffè, prendiamo anche Giuseppe Tornaro, Giuseppe Leoncino, capito? Dice, se scende anche Forchetto posso prenderlo lì a piedi, non c'è problema, no, vedi che sono sempre lì a prendere sigarette, giornale, fammi due chiacchiere da Massimiliano, Gigi, capito? E poi domani è venerdì ancora, la grande domenica io mi sembra, non ho problema. Poi se vogliamo fare un salto a provare, non c'è problema. Giuseppe, diventi number one, vice sindaco, tutto funziona bene. Belli animali c'hai, pieno animali, vale tutto, cavalli, con la scuderia, capito? Devi stare attento a non confondere un cavallo con l'aino, anche se no, ti prendi a colpi di mangagliù. Vabbè dai, ci sentiamo domani venerdì, ci teniamo in Italia. Ci sentiamo più là, dai. Ciao, buonanotte a tutti, dai, se no. le 7, anzi le 6 e mezza vengo troppo facilmente. Ok, dai, buonanotte a tutti quanti, guarda per me, dai. Oh, Giuseppe. Ria. Dove stai lavorando domani? Ah? Dove stai lavorando domani? Sempre là sono, Anto, sempre là in quella scuola, a Piazza Ranni, sino al 15, poi ho finito. Ah, il cappagatto. Va bene, dai, con 144, Giuseppe, tutto si ascolta, dai. Yeah, va bene. Ciao, ciao, buonanotte a tutti quanti, dai. Cioè, controlla prima di coricarti a vedere a quanto è quel microfono, se l'hai leggermente spostato più di 7. No, no, è dove hai lasciato tu il segno, come hai fatto tu il segno, è sempre rimasto lì, capito, a 7. Perché a volte lo fa, a volte non lo fa, ma è proprio un leggero fruscio, secondo come il PGA, vabbè, ok. Dai signori, buonanotte a tutti, ciao bambini. Scusate chi stava ascoltando e chi è in ascolto dello show di stanotte, detto così per divertirci, per combinare questo matrimonio tra Giuseppe e la figlia Sheila Cooper, ma è un anno che ci tento, ma non ci riesco, comunque prima o poi ci riuscirò, dai. Va bene, sta attento a me Giuseppe, a chi la saluta è entrata nella scuderia, ha detto uscita, ha detto allo babbo che c'era un cavallo con 5 zampe, invece la lagina che stava toccando il mangaglio a terra. La mazza te ne guarda. Infatti, Bobolì, vabbè dai, di nuovo dai, ciao ciao, buonanotte a tutti, dai che faccio per i tiri, ciao ciao, buonanotte. Tempo dell'otte, vai cosa? Giuseppe, dai. No, stavo dicendo una cosa a Claudio, ma che ve la scendete? Perché io ci scendo sempre, cazzo, mi trovo male, ma pure l'altro giorno ci siete scesi. Oh, domenica sono sceso e è un po' tardi, però sono sceso, la verità, hai ragione. Sono sceso forse che erano le 10:30, una cosa del genere, perché Massimiliano era al supermercato e stava comprando roba e quindi mi ha raggiunto lì. No, ci mettiamo d'accordo, allora il caffè sono la 9:30, no, giù andrà a mezzodino, capito? E i radio ci sentiamo sino a domani venerdì, ci sentiamo anche sabato e ci mettiamo d'accordo, non c'è problema, capito? Ciao Giuseppe, buonanotte a tutti ragazzi, dai. Ci sentiamo domani. Dai, ne approfitto anch'io, dai, salutarvi a tutti, buon 144 non l'ho fatto, buon tutto, qualche altro chiude le trasmissioni, a domani, ciao a tutti. Ciao, buonanotte a tutti, dai, ciao. Vabbè, dai, ci mettiamo d'accordo, vediamo un po' com'è la situazione, perché ci vado sempre, sempre, sì, è da anni così. È sempre un'abitudine, ogni domenica o quando sono libera e cosa vado sempre di vado. Ok, dai, buonanotte. Dai, ci aggiorniamo domani a tutti, buonanotte e grazie delle due chiacchiere. Ciao ciao. Ciao, domani. Ciao ciao a tutti, ne approfitto anch'io, ciao ciao a tutti.